avevi chiesto, avevi pensato, allora sto parlando bene, vero Sanedore? Che invece poi il cameriere ha fatto, guarda che sono romagnolo anch'io, sono col cavolo che mangiavi. Sono col cavolo che mangiavi. Bellissimo. Allora, senti, entriamo in inedito. Com'è la Laura Pausini che sta qua dentro? Che Laura Pausini è? Allora, è sempre Laura Pausini. Molte persone probabilmente si aspettavano che questa pausa di 2 anni che avevo preso mi portasse a desiderare un cambiamento artistico. Ma in questi 2 anni, anche se ho vissuto in una maniera diversa, io non mi sento affatto cambiata, anzi. Attenzione però, c'è un velo, cioè qualcuno si aspettava, chi doveva, perché dovevano aspettarsi un cambiamento secondo te? Ho letto in alcuni giornali che si aspettavano che ci fosse una, diciamo, rivoluzione musicale, ma io ho sempre fatto in modo che la mia musica fosse il riflesso della mia vita privata, di ciò che io sento, e mi sono sempre presentata cantando canzoni che parlano di me. Ancora una volta volevo farlo e ho scritto canzoni che sono proprio la mia vita e non ho cambiato stile, per non me è volevo sbagliato, cambiare. Forse se posso, no, perché se cambiare. Posso, se posso, no. Se sì, posso, c'ha troppo dire. Poco successo così, cioè. Cavolata, o cambi. Se posso dire una cosa, invece, che una rivoluzione è stata una evoluzione, no? Che sì, poi ho cercato, insomma, anche perché cerchiamo. Francesca, adesso comunque non ho più 18 anni, quindi le esperienze che ho vissuto in questi anni viaggiando e conoscendo un sacco di gente, un sacco di culture diverse, cambiando anche compagni di vita, dei miei fidanzati, persone che mi hanno dato. Giude è brutto, una cosa impressionante. Brutto, quanti ne ha cambiati? 15? Quanti ne ha cambiati? No, non ne ho cambiati tanti. Che ne so? 2? Quanti sono? 3? No, però non ne ho cambiati tanti, però ho vissuto varie sensazioni e anche delusioni, o a volte mi sono trovata in difficoltà. Beh, da te. Perché te? Beh, c'è un culo disco. Quando i cantanti si lasciano, il discografico è contento perché fanno le canzoni che belle, le fa cuore e vendono milioni di dischi. Il discografico ti sei lasciato e vai! C'è il disco nuovo. Guarda, è vero. Recentemente qualcuno mi ha detto: guarda, io preferisco quando te stai male perché così mi scrivi delle canzoni stupende. Ma io veramente non voglio. Cioè. Ma tu fai una cosa, ti mangi le cozze crude, è andata male, stai male, ma lo stesso, tutta la notte. Dura un giorno e poi il giorno dopo si è la canzone, scusami. Hai ragione, hai ragione. No, non hai ragione, non mi mangio le cozze crude. Le cozze crude non si possono sentire. Certo, avrà girato il mondo, ma ancora le due Z sono insormontabili per Laura. Le cozze crude. Non riesco a togliermelo, ma poi alla fine ho deciso anche che non me ne frega niente di parlare, diciamo, foneticamente perfettamente, perché non basta non mettere la parola la cozza in una canzone. Esatto, ma io ho un sacco di canzoni con la Z, per esempio ragazze, ragazzi, lo dico spesso, ma quando canto a volte è più facile per me non dire la Z romagnola, non so perché, fin da quando ero piccola forse imitavo le altre cantanti quando facevo piano bar. Non c'è problema. Quando parlo no, non ce la faccio, specialmente sì. Se vicino alla Z c'è una S, cioè adesso non mi ricordo, destinazione non riesco a dirlo. Certo, dici questa è spagnola, senti questa lettera. Sì, questa voce spagnola, sì. No, ma io posso fare un appunto prima di ascoltare, non ho mai smesso. Sì. L'appunto è questo, ma perché lei dovrebbe cambiare stile? O dovrebbe, uno dovrebbe aspettarsi che... Cioè, adesso parliamo sinceri, lei è la cantante italiana, l'unica, verso... Non me ne frega. Adesso uno può dire tutto, anche Malgioglio è primo in Guatemala, però bisogna stare a controllare. Ognuno dice la sua. Ma se voi volete sapere come si fa a sapere se un artista è famoso o no, ve lo dico io, andate su YouTube e andate a controllare da quali paesi visualizzano i suoi video. Beh, se lo fate con Laura Pausini, vedete che è l'unica cantante italiana dove i suoi video vengono scaricati in tutto il mondo. E noi ci ascoltiamo adesso. Grazie, non ho mai smesso. È la verità, me l'ha insegnato lui, lo sapevo. Grande. Non ho mai smesso. Grazie. Qui su questo palcoscenico di nuovo io mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso di amare te. Non ho mai tolto un pensiero a te. Non ho mai smesso. bellezza e l'ho trovata in fondo alla semplicità. Ho cercato il mio passato perché mi hanno detto che così si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. Non darei qualcosa che non c'è. E a modo mio so bene quanta fantasia ci vuole per partire. Si ritorna solo andando via. Chiesto torna mentre ero già qui. Non ho mai smesso da inedito Laura Pausini, che ci dimostra come poi le cose possono accadere. Io penso che Laura sia proprio la... Io l'altro giorno sono entrato nell'ufficio romano della tua casa discografica, sì, e c'era praticamente il manifesto del tuo primo, della solitudine. Tu sdraiata, non so se era gabbiccia, riccione, cosa fosse, su un muretto, adolescente come molte ragazze che vedo, sì, qua, con un grande successo che è stato La solitudine, che tra l'altro io ho sempre cantato a memoria, e ci facevo un po'... Sai, io ero già grandicello in realtà, ma già sulla solitudine ci vedevo dentro i primi amori che magari non avevo in queste fasi qua, perché è una bella canzone d'amore. Sì. Poi pensare che da un papà musicista, da un piano bar, tu fai questo percorso, io credo che sia un esempio per tutti. Cioè, se non ci credi tu in quello che vuoi fare, non ci crede nessuno. Cioè, quello che è capitato a te è la dimostrazione che sì, si può nascere figli di papà, si può nascere ricchi, si può nascere... Ma tutti, se ci crediamo, con tanta fortuna, tanti, tutto ciò che sì, vuoi, ma io, ce la possiamo fare. Io credo che la fortuna sia fondamentale da spiegare a chi vuole fare il nostro mestiere, non solo i cantanti, ma appunto anche nel vostro caso. Dobbiamo essere anche fortunati, perché c'è tanta gente in giro che ha talento, ma magari non incontra le persone che lo aiutano, nel mio caso i musicisti che ti scrivano le canzoni adatte a te. Io sono stata molto fortunata, anche se quando faccio le interviste, poi ancora oggi mia mamma mi chiama e mi dice: perché dici sempre questa cosa della fortuna? Io dice: mamma mia, sei una sfigata, non lo so, fai dire pure che è sfortunata, non lo so. Ma no, perché lei dice che io che sei brava. No, dice che baso tutto sulla fortuna, ma io in realtà credo a questo, perché ho fatto 10 anni di piano bar con mio padre, da quando avevo 8 anni a 18 anni, e il mio sogno era far piano bar. Io non volevo fare la cantante famosa. Sono cantante di piano bar. Ma scusa, ma 8 anni che canzoni cantavi al piano bar? Le canzoni della musica italiana internazionale. Bellissimo. che ti richiedono nel piano bar, perché c'era la gente che veniva e diceva: stasera voglio ascoltare, non 8 so. Anni fa, mi scappa la pipì, no, mi scappa la pipì. Scusa, no, è veramente, stasera voglio ascoltare. Mi chiedevano Mina, Lavanoni, Anna Oxa, poi tutti i miei idoli, diciamo. Sì, poi, ma il cavallone da battaglia, 8 anni, quando volevi stendere la platea, 8 anni, papà, no, papà, se voglio cantare quella. Se te lo dico, non ci credi, New York di Liza Minnelli. Facevo: sta prendin de nu. Un po' come te quando canti quando a canta Suana Gana, diciamo. Sì. Esatto, non sai le parole. Ci siamo copiati, no? Però è stata un'avventura bellissima, e anche se oggi mi rendo conto che quando si apre il sipario e vedo tantissima gente il cuore batte a palla, devo dirti che il principio per il quale io faccio questo mestiere è lo stesso per il quale ho cominciato tanti anni fa, cioè l'emozione del cantare è uguale sia che la platea sia piccola che sia più grande, perché la mia vera passione è quella, non è essere famosa, è cantare. Allora, e quindi scusami, ma in quest'anno così di fermo in cui hai detto ho fatto cose normali, nel senso che non facevo da tanto tempo, come hai fatto? Perché ho cantato sempre, i miei genitori hanno una casa che ha un giardino molto grande e ho cantato tutta la primavera, tutta l'estate. In giardino? Sì, cantavo tutto quello che usciva in quel periodo. Infatti diciamo. I vicini sono contenti che è ripartita la tournée, cioè finalmente si dorme, si può stare tranquilli. Esatto. Cioè stavi in fila, non so, alla posta per pagare la bolletta, cantavi. Mi è successo che volevo andare in banca e alla posta, insomma, a pagare le cose che vanno pagate, e il direttore della posta piuttosto che della banca mi diceva no, non fare la fila, vieni. Dico, ma io mi sono fermata apposta per fare la fila. Scusa, io volevo capire come voglio vivere normale, sì. Non ti ci fanno vivere. Io non sono famoso come Laura, ma domenica sono andato in questo ipermercato di via Idrovore di via della Maglianella, sì, là, alla Dago Ibromarket, in periferia. Sì, vicino a Via della Pisana. E praticamente tutti simpatici, carini così. Ma una signora, ha fatto la signora romana, ma ha bloccato il carrello. Io tiro il carrello con le mie cose, che c'era la festicciola per mio figlio. Tiro il carrello, la signora mi prende il carrello e mi fa: dove vai? T'ho riconosciuto, sa? Con occhiali. E mi ha tenuto 20 minuti col carrello in ostaggio. No. Dopo un quarto d'ora ho fatto: se vuoi rivedere il tuo carrello vivo, mi devi. Grande. Ma qua a Roma fare la spesa è un'avventura, eh? Anche a me è capitato. Ci sono più socievoli. A Laura! A Bella! Gli dico, scusa, puoi parlare sottovoce, perché magari se sentono gli altri dopo non finisco la spesa, perché magari devo fare le foto così. Ma che stai scherzando? Ma che parlo forte? Dico forte che c'è sta Laura Pausini! Io sono scioccata tutte le volte. Senti, posso raccontare un episodio? No, scusa, ti interrompo. No, racconta, sempre. No, sai che c'è che Laura Pausini, sia per me che per te, vorremmo chiedergli 300.000 cosa, cose. No, racconta l'episodio. Racconta, sì. L'episodio semplice. È un episodio che gli fa. Allora, per due volte nella mia vita, due volte, tornando dall'innata a Fiumicino, cioè che lei è veramente una grande star. Io stavo in un angoletto stanco, avevo finito la trasmissione, da quelli che il calcio, e due volte, non una, due volte, mi sento picchiettare le spalle e lei mi fa: Max, come stai? Ti volevo salutare. Francamente, Laura Pausini che cerca te. Cioè, ma perché? A me ogni tanto mi fa ridere questa cosa, perché tutti dicono: Madonna, Laura Pausini mi saluta. Cioè, io sono normale, eh. Cioè, è per questo che ti vogliono così bene, siamo così contenti che sei qua. No, io ti ho visto, ti seguo da tanto tempo, mi piace, mi fai sfataccare da ridere e mi diverto molto con te. Sfataccare da ridere, l'ha detto anche a cena con Obama l'anno scorso. E Obama l'ha capita. Onda Verde, ci ascoltiamo l'Onda Verde, ci risentiamo tra pochissimi minuti insieme a Laura Pausini. Anche perché dopo ci riascoltiamo Laura Pausini, inedito. Uno come un Babbo Natale. Radio 2. I am green, grey, red. I am Mary. I am Christmas. I am Coolpix. Qualunque sia il tuo Natale, c'è sempre una Coolpix perfetta da regalare. Fotocamere digitali Nikon Coolpix. Fashion, high tech, easy e Nikon. I am Coolpix, I am Nikon. Allora, le renne ci sono, la slitta pure. Teo, che fai? Qui in poltrona sofà c'è il molto più che metà prezzo su tutta la collezione Tresor. Hai ragione, Akea soli 399 euro, topinambura 599 euro. E ci sono divani letto, sofà con penisola. Tutti a meno di 699 euro, ma in fretta, è l'ultima settimana. Carico tutto sulla slitta e vado a casa. Sembrerai Babbo Natale. Se viene anche lei fa la Befana. Poltrone sofà, buon Natale a chi se lo fa. Info su poltronesofà.com. Con l'operazione Pandamonio nelle stazioni Agipa ed Eni aderenti bastano 30 euro di rifornimento e potrai acquistare a 5 euro uno dei peluche del film Kung Fu Panda 2 fino ad esaurimento scorte. Info su eni.com. Onda Verde, servizio coordinato dai ministeri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'interno. 11:57 minuti, buongiorno dal CIS Viaggiare Informati. Il traffico nel complesso regolare su strade e autostrade, qualche turbativa alla circolazione può essere provocata dal maltempo, segnalati infatti vento forte e pioggia, in particolare al centro-sud. Passiamo alle segnalazioni. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, lavori interessano il casello di Villanova d'Asti, che resterà chiuso in uscita in direzione di Torino fino alle 17 di oggi. Ancora sulla 21 ricordiamo che lo svincolo di Manerbio rimane chiuso in entrata sia perché è diretto verso Brescia sia verso Torino. A Milano sulla tangenziale ovest segnaliamo 2 km di coda tra Viale Certosa e l'uscita per Molino Dorino sulla carreggiata sud verso l'Autosole. E ritroviamo i lavori anche in provincia di Verona sulla statale 12 nei pressi della località Caselle di Nogara, con circolazione regolata da un senso unico alternato. Sul posto si viaggia rallentati nelle due direzioni. Attenzione poi alla nebbia che riduce la visibilità sulla 4 tra Cessalto e Mestre e poi sulla 15 Parma La Spezia tra Parma e Fornovo. Ci spostiamo nella zona di Bologna dove, in coincidenza con lo svolgimento del Motor Show, segnaliamo possibili difficoltà di traffico sul tratto urbano della 14 e sulla tangenziale nei pressi dello svincolo Fiera. Proseguono ancora i lavori nella zona di Perugia. Sul raccordo Bettole-Perugia lo svincolo di San Faustino resta chiuso in entrata per il traffico diretto verso Ponte San Giovanni e verso la E45 e lo stesso svincolo è chiuso anche in uscita per il traffico proveniente da Bettole. A Roma sulla 24 segnaliamo rallentamenti in ingresso verso la capitale da lunghezza alla raccorda anulare e poi code nelle due direzioni sul percorso urbano da Portonaccio alla tangenziale est. Passiamo quindi al sud, ci sono segnalazioni di vento forte lungo la 16 in Napoli-Bari tra Vallata e Candela e poi sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord e Termoli e da San Severo a Foggia. Ed era questa l'ultima notizia. Per chi viaggia in autostrada ricordiamo gli aggiornamenti costanti sulla viabilità nelle 24 ore con Rai Isoradio 103.300. Ricordiamo anche il prossimo appuntamento con l'Onda Verde previsto alle 12.51 minuti su Radio 2. Per ora è tutto, un saluto da Sergio Russo e buon proseguimento d'ascolto. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di ENI. Ma c'è un nuovo eroe in città, duro come un babbo Natale. Radio 2 Supermazzo, che bella atmosfera qui in studio insieme a Laura Pausini. Io ti volevo chiedere, in questo tuo nuovo disco inedito, molte collaborazioni, anche guest, ospiti un po' di lusso, no? Sì. Perché, vabbè. Tutti italiani, Tutti italiani, molto Niccolo Fabi. Desiderati. Gianna Nannini, Ivano Fossati e Silvia Pausini, cioè tua sorella anche. Sì. È vero? Sì, c'è mia sorella. Ma, e... ma fa la cantante? No, non fa la cantante, anzi è stato abbastanza difficile convincerla. Però quando eravamo piccole, siccome già mi dilettavo, diciamo, appunto in casa mia a cantare, avevo bisogno di una corista. Quindi le dicevo: Silvia, devi venire a cantare con me. Lei non voleva mai, quindi io la picchiavo a volte. Però diciamo che. Io a mio fratello lo vestivo da femmina, invece Laura Pausini picchiava la sorella per farla cantare. Vedi, che è una cosa. Noi, vabbè. Noi fratelli maggiori siamo cattivissimi. Allora, con Laura è successa una cosa strana. Normalmente i grandi management delle grandi star, no? A parte non ci hanno chiesto la frutta in camerino. No. Sai perché non ce l'hanno chiesta? Perché a me mi fa schifo proprio la frutta. No, ma anche perché non abbiamo il camerino, purtroppo. Ti fa schifo la... Però pure a me, sai, quando andiamo, vado in tournée, cioè c'hai fame, fai primo sound check, cantichi un po', poi cerco di mangiare un po' prima, perché se vai proprio a digiuno, cavolo, crolli. No, digiuno, però se mangi tanto, poi routine. Una volta mi è successo, lo sai? Sì. Non a me, cioè perché non pagavano in un paese, in uno spettacolo tanti anni fa, e c'era stato un cantante, non posso dire chi era, Nicola Di Bari, e gli era scappato un ruttino. Sì, e il giorno dopo tutti quanti dicevano: mi raccomando, non fate rutti. Mentre dicevo: ma perché abitualmente che si fanno? Ma pensa quando succede, taglia la lolli, vabbè, andiamo avanti. Non si può tagliare, siamo qua. Senti, ma quello che volevo dire è che normalmente ci arrivano già i dispacci con i brani. Invece Laura è venuta, ha detto: senti, vabbè, scegliamo direttamente dal CD. Cosa vuoi ascoltare da inedito? Che canzone ci ascoltiamo? Dici quello tu. Che vuoi te, non so, bastava. Bastava? Sì, bastava? Quella che hai detto tu, bastava. Da inedito, Laura Pausini. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. Bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende e lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. strada in centro, in un pomeriggio bianco. Bastava prevedere il tuo fastidio, fare i conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è acqua passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Come ci siamo ridotti io e te. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa il meglio per sé. Bastava dire tutto anche se poco, quello che capisci dopo. Bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere per terra. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Bastava, c'è un'atmosfera qui. Spero che arrivi anche a casa vostra quello che sta accadendo qui in sala B questo lunedì mattina. Lo sai, sì, qual è la cosa, sì, bella? Sì. È che Laura ha cantato sopra il suo pezzo con un entusiasmo, cioè si vede proprio che ha voglia di cantare, cantare dal vivo. Questa è la verità. Perché una... cantiamo per un cantante, no? Sì, dopo, sì, che esce il disco, cioè il disco in realtà per te ormai è vecchio, cioè l'hai fatto, l'hai già inciso, l'hai cantato in studio. Finché non lo canto davanti alla gente non è neanche nuovo, cioè è solo per me, quindi non vedo l'ora di condividerlo. Ma ci siamo quasi, la data zero a Rimini quand'è? Allora, la data zero... Il 18. Il 18, non ma, è una, loro. Ma è una data a inviti. A inviti. E che quest'anno è rivolta a tutti i ragazzi iscritti al mio fan club. Il fan club. Wow. È il fan club che bella, su internet si chiama laura4u.com, è scritto laura4u.com. Max non perché può capire. Perché per risparmiare questo... su intestazione? No. Si sì, sì. Non sì, può hai ragione, sì, non sì. Può capire, lui non è homus tecnologico. Ah, comunque, disculpa. Siccome tu hai... Ringraziamo la Laura perché ci ha fatto una sorpresa oggi. Un sì, nostro Beniamino, grazie a Laura, è qua. Sì, veramente. Che hai duettato... Cioè, ho fatto fatica a portarlo, però mi ha detto che... Per cioè, te, l'ho convinto, insomma, è venuto convinto. Tu che hai duettato con i più grandi, ne cito solo alcuni, che ne so, Michael Bublé, Aznavour, Phil Collins, solo per te oggi è venuta qui in studio la più grande rockstar del mondo, Bono Vox! È sul palco Bono Vox. Pubblico tutto in piedi, è arrivato, un grande onore. È venuto soltanto per Laura. Bono. Ciao Bono. Bono, ciao. Bono. Bono. A Bono. A Bono. Grazie. Ma so anche bello dentro. Lo sappiamo. Allora Bono, tu ti batti per la... Ti batti per la cancellazione del debito. Di quale paese oggi? Di quale paese? Popoli di Radio 2. Popolo di Via Siago. Tutti uniti aiutiamo paese in rovina. paese di morte di fame. Sì. Quali sono? Quali, chi sono questi poveri? Italiani! No, ecco, no, cioè, scusa, eh. Scusa, Laura, sarai d'accordo, cioè, con me? Vabbè che c'è la crisi, però proprio noi italiani, scusa, no, Bono. No, sì, no, che lui raccoglie soldi in giro per il mondo per aiutare gli italiani. Però, Bono, oggi siamo in Italia, cioè, qui sono tutti italiani, non è che gli italiani aiutano ecco gli italiani. Perché ci avete queste facce. Ah, bene, benissimo. Grazie. Ecco perché oggi mi hanno già scippato 7 volte. Ma non è vero. Italiano, brutti sporci, cattivo come film. No, allora, non dire così perché non stiamo ancora così male. Non vuoi dire niente a Laura che sei venuto qua per duettare con lei? Vuoi Laura, dire... cantante italiana, purtroppo, come tutti italiani, povera. Ma no. Vabbè, ma come? Cantante italiano per colpa di crisi, tutti poveri. Poveri noi. Tutti senza denti per mangiare. Ma, no. Ma come senza denti? Io ce li ho, ci sono anche il buco in mezzo. Quello per colpa che ha provato a mangiare microfono. Ma no. Ah! Ma non è che... ma mica si mangiano il microfono i cantanti italiani, ma che dici? Quelli più fortunati. Ah. Gli altri si mangiano il chitarrista. Qui ce n'è uno. No, tu troppo secco. Che ci fai col tuo? Prenditi il nostro, Luca Casagrande. Che bello, Luca Casagrande. Dopo vuoi consigliarti un po'? Sì, allora, puoi fare provvisti. Visto che sei venuto fino a qui per Laura, cosa volete cantare? Voglio Bono cantare canzoni dedicate a crollo di economia italiana. Addirittura. Crollo di euro, ritorno alla lira. Vabbè, speriamo di no. Come si chiama questa canzone? L'ha ispirata Laura Pausini. Si chiama One Euro se n'è andato. Ma grazie, mi suonano familiari queste parole. Comunque live in diretta da Via Asiago, Bono Box featuring Laura Pausini in One Euro. Mamma, se n'è andato. Sono emozionatissima, addio. Euro se n'è andato e non ritorna più. Lo spread del 7,30 senza lui now. E mo Marco ti fa ciao. Ma questa è la solitudine che stai cantando, Paolo. One love, one life, one che ti capiturai. What a bill, what a debito. Italiano, non ti fanno più credito. Benvenuto a PCA. Benvenuto a FMI. Diamo tutti il benvenuto, benvenuto now. E poi chiedi soldi e fanno ciao. Gira che tiri gira, va a finire che ritorni alla lira. Guarda rotoli, li asfalta. Grazie Max, insieme a Laura Pausini. Grazie, grazie, grazie, grazie Max, anche la band, ragazzi fantastici. Max, che emozione cantare con Bono, solo qui potevo farlo. Ma guarda, sì, ma no, ma tu lo sai che c'è una canzone tua che si presta tantissimo, cioè a diventare neomelodica? Ma che davvero? Tra te il mare. Dai, ti prego, fammela sentire. Cioè, come potrebbe fare? Cioè, mi fai l'inizio, le prime. Mi fai le due strofe normali dell'inizio, poi entro io nel melodico. Dammi un po' di lei, Paola, poi. Vai. Ma che te frega? Dice che non si ricorda le parole. Sa, com'è, sa, di, suggerisce a Laura Pausini le parole sue. Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via. Ne melodico. Non posso più dividermi tra te e Mario. Voglio confessare questo mio rapporto omosessualio. No, dai! Ne melodico, cassi in quattro! No, bellissimo! Sulle mani! Everybody! Everybody! Non posso più dividermi tra te e Mario. Voglio confessare sul rapporto omosessuale. No, guaglione no, vai! No, guaglione no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami. Amore no, guaglione tu. No, guaglione no. Ogni volta che tu vai via me fa soffrire. Preferisco dirti addio, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Segreto. Grazie Laura. Comunque da oggi. Grazie Laura featuring. Ricordate che tutte le bangarelle abusive sarà domani la canzone. A quando arriverò a Napoli, perché andrò anche a Napoli in concerto. E allora canteremo. Ragazzi, ricordatevi, dobbiamo fare a questo punto. Io voglio che la gente mi risponda e mi dica no, guaglione no. No, guaglione no. Dai, è fighissimo. No, guaglione no, io non ci sto. Allora, lei va in tour. Posso dire tra l'altro una cosa, sì, scusate. Cioè, siamo improvvisati, cioè l'abbiamo buttato la scaletta. Ma via. Che ce ne fece? Abbiamo Laura Pausini, ma che ci importa? Ma pure Laura non ha provato niente così. Improvvisa. Ma va bene. Canta con un microfono che non serve per... Vabbè. Sì, comunque. Non so in che tonalità l'ha fatta in sì, è solo sì, cioè stava altissima. Senti, tu non vai in tournée, tu traslochi. Cioè, ogni volta lei parte in tournée e sta via 7 anni, cioè torna tipo, cioè, c'è Penelope che aspetta a casa, ma cioè veramente il cane. La Penelope della Gianna Lannini, la mi aspetta a casa. Ah, certo, perché l'ha la bimba, la Penelope. La bimba, no, ma effettivamente quando parto voglio partire, cioè non voglio partire un mese, poi cioè cosa faccio un mese? Niente. Certo, ma anche perché dice una volta che me lo sono parato lo spettacolo che faccio questo. Esatto, anche perché sì. Dopo che passano tipo 10 date comincio a godere di brutto, non ho più paura, comincio a andare sul palco e capito? Diventa Iron Maiden. No, no, diciamo, ma è pazzesco. Si trasforma. Io l'ho allora c'è in un canale televisivo dove fanno il live, c'è un suo concerto che viene trasmesso molto frequentemente, dove ci sono varie tappe e apparentemente lei ha fatto questo video. Ah, non so sì, che sì, è l'ultimo tour. Bravo. Del 2009. E praticamente ci sono tutte le canzoni, due di una tappa, due dell'altra, sì. Le ho messe tutte insieme. E questa ragazza qua, cioè sul palco, è veramente un animale in senso buono da palcoscenico, incredibile. Cioè, tu quanto dura un tuo concerto? 2 ore. 2 ore, perché ti ferma la gente tua. Se esatto. Cioè, ti sparano con la carabina, con la cosa, diciamo, come gli elefanti, no. Quando sparano per farli quando addormentare. Quando sono all'ultima del bis, sono disperata. Non è possibile, è già passato. Sono stanchissima fisicamente, però mi sembra che è andato tutto velocissimo. Quindi vorrei stare lì altre ore, però non voglio neanche annoiare troppo la gente. Sei mai andato a vedere quegli spettacoli dal vivo che durano anche 4 ore? Dopo sì, un che po'... dopo un po' troppo. Sì, ti fa male sedere quando si cioè da sei talmente seduto da 4 ore che non ti puoi mai alzare, cioè non ce la fai più. Io non voglio che la gente sia annoia. Allora, comunque, diamo un'idea di quello che vuol dire per la Laura Pausini andare in tournée. Allora, il 18 dicembre quella è riservata solo agli iscritti del suo fan club. Sì. E poi il 22 dicembre invece sei al Mediolanum Forum di Milano e fa 6 serate. Sì. Praticamente, come 6 serate? Faccio sì. Il 22 e il 23. Quanti parenti c'hai io? Oh! Ne ho sei serate. Tra l'altro ne ho pochissimi io di parenti, non sono di quelle famiglie grandissime. Però verranno con me specialmente il 25 perché cantiamo il giorno di Natale. È per Grigina New Year? Sì, no, quello è New Year, no, è anche a Capodanno no, canto. Pure a Capodanno canti. Sì. Capodanno a Roma, a Capodanno romano. Che bello, quindi fai Capodanno a Roma? Sì, e faccio uno spettacolo che è veramente particolare, cioè fino da, faccio uno spettacolo normale di 2 ore, poi da mezzanotte in poi inizia una festa vera di un'ora, un'ora e mezza. Posso dire una cosa? Sì. Scusami Max, tu fai il 31 dicembre a Milano, ti avevo promesso che venivo da te, ma io invece vado a vedere Laura Pausini. Adoro Franci! Scusa, d'altra parte, ti vedo Max, tutti i giorni. Posso dirti una cosa? Sei una brutta persona. Farei lo stesso, al posto tuo. Ma solo Max, perché il mio spettacolo già lo conosco, scusa. Certo. Max, te vai a Milano, quindi sì, ci facciamo... nuovo, ci facciamo gli auguri magari. Esatto, via. Però il 2 siamo qui e con la family e anche Happy Children, me ne vengo a palla all'automatica. Bravo. Allora, quindi lei sta dal 22, 23, 25, 26, 28, 29 dicembre al Mediolanum Forum, poi si va a Roma, 31 dicembre compreso, e si replica l'1, il 3, il 4, pensa al concerto dell'1. Ma stanno sarò tutti... sfatta io. No, ma vabbè. Il loro sotto... Beh, loro sono tutti ubriachi, tipo. C'è il fatto quotidiano che per esempio, cioè, pronto, quando comincia? Hai già finito, sei arrivato tardi, vabbè. Senti, poi dopo però si apre una finestra di un mese di America Latina. Cioè, sì. Posso dire Brasile, Argentina, Cile, Perù, Venezuela, Costa Rica, Panama, Santo Domingo, Monterrey, ma che è Risico o una tournée? Sì, sì, è Risico. È quella dei mondi Latina. Praticamente. Dopodiché ritorniamo in Italia perché iniziamo la tournée europea dove faremo tutte le tappe delle città più importanti d'Europa, Parigi, Madrid. C'è una città dove debutti quest'anno la prima volta, dove non sei mai stata a suonare? Oddio, no. Sono già stata dappertutto. Sono 70, 60. No, ma aspetta, credo a settembre, adesso non mi ricordo esattamente, andiamo in Australia. Andiamo in Australia, non ci sono mai stata. Mai stata in Australia? Sì. Attenta, quando sembra che festeggiano, che saltano, sono animali, non pensate che sono canguri, ti immagini? Ma che... Italia la fai tutta, cioè sì. Adesso ci saranno queste due grandi botte e poi in primavera andrai più a marzo inizia la tournée anche nel resto d'Italia e comunque la tournée finisce il 31 dicembre 2012, quindi nei prossimi mesi annunceremo anche le date che facciamo la prossima estate e il prossimo inverno, sarò in tutte le regioni italiane. Per ora quello che mi hanno detto è l'unica regione che non c'è e sono molto dispiaciuta, infatti sto facendo pressioni, è la Basilicata. Vabbè, lì mi vengo io insieme a Rocco Papaleo e facciamo una cosa un po' minore, cantiamo le canzoni di Laura. Allora vengo anch'io, no, faccio cori. Tu invece in Basilicata perché è importante quello che tu fai. Cioè, sì. Guardate che un artista come lei potrebbe permettersi di fare le date solamente nei grandi centri, anche perché la gente lo prende il treno per la Roposini, come avete fatto voi oggi, e vi ringrazio a nome suo, anzi vi ringrazio a lei. Grazie mille, infatti, parte. A tutti. Però andare, soprattutto dappertutto, ma ci sono delle ragioni dove i grandi artisti non vanno mai, per problemi anche a volte logistici o sì, di tante sì. cose. Infatti la Basilicata per ora non è inclusa, perché stiamo cercando di capire come organizzare il concerto lì, ma è stata una mia richiesta non fare gli stadi. All'inizio mi hanno proposto, non facciamo niente d'inverno, facciamo uno stadio a Milano, uno a Roma e uno a Napoli, però così vado solo in 3 regioni. Invece io volevo, siccome quest'anno voglio stare un anno in tour, volevo andare dappertutto e ho deciso di fare i palasport d'inverno, di fare delle serate un po' speciali d'estate, poi lo vedrete quando le annunceremo, e poi di nuovo per l'inverno dopo ritornare a fare tutto un altro giro. Ma io voglio stare in giro, cioè. Ma fai bene, ma è il tuo mestiere, on the road, il nostro un mestiere. Po' rock, cioè, non è un po' rock, sì, ma amica mia, se io avessi i pezzi che c'hai tu, la voce che c'hai tu, io stavo, ma chi ci tornava a casa? Ma fai io voglio proprio. Fare facciamo un bel duetto neomelodico tutte le date, vieni a tutte le date, ma a fare... magari ci caschi, io già sono pronto, c'ho pure, posso lavorarne altre, ma sai, non lo faccio, io, sai, non vengo non tanto per te, ma quanto per il rispetto che ho per i tuoi fan, no, a cui non vorrei rovinare una data. Fategli sentire come siete caldi, vai. Senti, stupendi. Senti, ma è vero che il tuo fan club ha sede nella tua prima casa? Sì. Cioè, la tua casa dove tu sei nata? Allora, io sono nata in questo paese che diceva prima Max, si chiama Solarolo, e sono stata fino a quando avevo circa 12 anni in una casa con i miei nonni. Poi dopo siamo andati in un'altra casa, sempre nello stesso paese, e quella casa adesso è diventata il fan club. Me l'hanno, diciamo così, regalata ai miei genitori. E i ragazzi chiamano il fan club e dicono: voglio visitare il fan club, voglio fare le foto con i il, non so, il, la statuetta di Sanremo, il perché Grammy. È tutto lì, chiaramente. È tutto lì. Sembro, tutti quei premi anche. Mi fa un po' impressione, lo dico sempre, perché sembro morta. No, perché infatti, cioè, siccome ho letto che fuori c'è una targa, qui ha vissuto Laura Pausini. No, non è vero, ah, quello non è vero. Vera, c'è una targa con Leopardi, Manzoni, qui passò. Se mi fanno quella, veramente uccido i miei genitori, perché cioè non è possibile, no, ma mio, no, no, lo sanno già, sono imbarazzata perché... Quando entri c'è un percorso da fare che è fatto dai premi, dal non so, c'è per esempio mio padre ha messo, perché a grande richiesta dei fan volevano vedere delle cose mie da piccola, quindi ha messo il foglio rosa della patente per prima di prendere la patente, piuttosto che la mia pagella, ci sono varie, il microfono con il quale cantavo a piano bar, ci sono varie cose così. Poi ci sono i vestiti di Sanremo, i vestiti del Grammy, il vestito del, non lo so, di un tour particolare, e sono tutti nei manichini, quindi io mi guardo e dico, no, veramente sembro Elvis Presley, è morta, è italiana, dico veramente sono ancora molto viva, cioè, faccio un po' pressione. È bella, però i ragazzi però sono contenti, quindi io lo faccio per loro, perché lo scrivono proprio. Visto che tu stai gli anni fuori, magari possono andare lì e stare si fanno un pochino la foto, con te, si provano giusto? La giacca, fanno tutto questo. Certo. Senti, io seguo tutti i giorni un quotidiano particolare, non so se tu lo conosci, è Il Fatto Quotidiano. Ah, molto interessante. Sì, perché insomma parla di politica, eccetera. Non so se c'è una parte di recensione musicale sul Fatto Quotidiano, se hanno già recensito il tuo disco, però cerco di parlarci anche oggi. Ogni tanto sbaglio numero, credo che questo di oggi però sia il numero esatto, quindi mi collego con la redazione del Fatto Quotidiano. Pronto? Pronto? È Il Fatto Quotidiano? E chi è? Io sono Francesca Zanni di Radio 2. Chi cerca lei? Il Fatto Quotidiano. Da dove chiama? Eh? Da dove chiama? Da Radio 2, da Roma. E che vuole? Chi cerca? Io volevo parlare con Il Fatto Quotidiano, lei è Il Fatto? E secondo te uno con questa voce chi è? Nanni Moretti? Chi potrebbe essere? Non lo so. Che dopo ha più fatto le cose, no, che sono cantate? Bob Marley? No, no. Bob Marley. No, Bob Marley no, grazie. Berlusconi si deve dimettere, deve andare via. Ma guardi che... Ma si è già dimesso. Sì, infatti, cioè si è già dimesso da un sacco di tempo, da giorni ormai. Ammazza, si è dimesso da solo? Sì. E i dottori che hanno detto? No, niente. Si è firmata a bassa di ricovero da sole, Santa Caposala! No, allora, ho capito, neanche oggi riusciamo a parlare di politica e di economia. Va bene, non fa niente, non importa. Bisogna comprare i titoli di Stato, se no si alza lo spread. Finalmente dice una cosa sensata. Lei li ha comprati i titoli di Stato? Sai quanti? Bravo. Quelli giamaicani. Giamaicani, ma sono sicuri? Mica tanto, dica la verità, perché all'aeroporto un po' da rischi sempre. Bisogna essere sinceri, non è che... Ma io sono previdente, ecco. Ci sto attento io, sa. E come fa a starci attento? Me li fumo prima. I titoli di... vabbè, okay. Avete quando in bocca al metal detector come stavo. Allora, Bob Marley. Io sono Fatto Quotidiano tutti i giorni, anche i festivi. Mi fa piacere. Allora, ho sbagliato numero, mi sono accorta di questo. Mi dispiace, io volevo parlare della riduzione dei costi della politica, ma purtroppo... È vero, bisogna ridurre, sono troppi. In Parlamento intendo. No, in piazzetta, dico, sono troppi. E tu sai, quando sei in troppi, gira, alla fine ti rimangono solo tutti, diciamo. Soprattutto quando non sei di mano. È brutto quando non sei di mano, sai? Ma che è? Busso. Chi sei? Volo, c'ho la matta. Ma io non ho parole, che sta dicendo? Non ho parole. Parola lo dico io, vedo. Ma va bene, allora, grazie. Ma c'è Laura Pausini? Sì, c'è Laura. La voglio ringraziare, ciao Laura. Ciao, come stai? Cioè, come stai, lo so, sei fatto. Sì, insomma, sono quotidiano però, non è... Sì. Sto sulla notizia, sto molto sul pezzo. Lo sai che ho girato il videoclip a Amsterdam? Mi è piaciuto tanto, mi hai anche dedicato la canzone, ha sentito il titolo? No. Non ho mai smesso. Eccolo! Vabbè, possiamo chiudere qua, grazie. Senti, c'è un problema. Ma mi dispiace. Ma Francesco, devo chiedere una cortesia. Non è che siccome sono uscito senza portafogli, non mi succede mai. Mi vergogno quasi a chiedersi, che ormai c'è anche una certa confidenza, certo, con queste interferenze. Non è che mi potresti prestare qualche spicciolo per giocare a flippe? Guarda, non sai quanto mi vergogno. Ma via telefono? Sì, vabbè, perché glieli ma se per giocare a flippe, vabbè, ma quanto ti serve? 8.000 euro. 8.000 euro? Ma quante partite devi fare? Cioè, nessuno, è che prima di andare a giocare a flippe devo andare a fattista in piazzetta. Allora. Grazie, ci risentiamo domani, dopodomani. Vabbè, che peccato, è già finita. è già finita, è un vero peccato per noi, ma invece inizia per tutti i fan di Laura e per tutti gli amanti della sua musica, noi compresi. Inizia il momento di godersi questo lavoro che è inedito di Laura Pausini, perché Laura dal 18 dicembre per un anno sarà in tour. Tra un anno, l'appuntamento intanto però lo diamo subito: dal 22 fino al 29 a Milano al Mediolanum Forum e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio a Roma al Palla d'Automatica. Signori, sì, un estratto, grazie, di musica e di energia. Grazie, grazie mille. Il 25 faremo a Milano uno spettacolo veramente speciale per Natale, quindi vi aspetto a tutti, e il 31 a Roma al Palla d'Automatica. Quella sarà una notte veramente, speriamo col botto, perché facciamo uno spettacolo lunghissimo da condividere con voi. Vi e aspettiamo. Io non me lo perderò. Grazie, grazie a Laura Pausini. Ciao Max, ciao Franci. Ciao. Grazie Laura. Domani, a domani.